Allora parlo con la Zanzara, Radio 24. Ciao belli, Radio DJ. DJ Angelo Roberto Ferrari. Da Foggi, provincia di Cagliari, vicino a Cagliari. Sono molto felice di parlare con lei, dottor Cruciani, che tra l'altro. Vabbè, dai. Tra l'altro, dottor Cruciani, dai gossip leggo che lei è un cacciatore di figa, no, niente no. Male. La Zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Sì, lo so ragazzi, lo so che volete subito iniziare con la vicenda Salvini, con tutte le polemiche. Salvini ha provocato andando al campo rom di Bologna, si è meritato le botte, poi in realtà non l'hanno toccato, si è meritato la macchina sfasciata, l'aggressione, e non aveva avvisato, secondo la polizia, del suo itinerario i responsabili della sicurezza, secondo lui invece la polizia era informata di tutto, eccetera eccetera. Lo so che volete parlare di questa grande polemica, io però inizio con qualche cosina, con qualche piccola cosina all'atere, se vogliamo, all'atere, grande popolo della radio, perché in Italia ormai non si può più dire nulla, non si può più dire niente, oppure non si può più dire un cazzo, come volete, insomma, no? Allora, pensate che perfino Alfonso Signorini, persino Alfonso, no, poi non voglio più toccare questo tasto perché abbiamo già dato. Hai ragione. No, ma non parla. Hai perfettamente ragione. Mugolo. No, mugolo. Ma hai ragione a mugolare, perché mugolo. Non se ne può più di questo argomento, abbiamo già dato. Ma perfino, si sente il mugolo? Sì, benissimo. Persino Alfonso Signorini è stato costretto, non ma so dove se dalla poi? Sua. Ma no, dove poi? Sì, quale posto, nel salotto, devi dire, nel salotto di Fazio, che non so. Sarà che ispira il buonismo, ispira la cosa ecumenica, ispira le parole buone. Persino Signorini, che fino a due minuti prima aveva detto io non mi pento di quel titolo sul ministro Madia, Bigotti sono gli altri, tutto sicuro di sé, chissà cosa è successo. Bah, forse paraculismo, forse, ma a me sinceramente la cosa mi ha anche fatto un po', non dico schifo, no, però insomma. Cosa, ti ha chiesto scusa? Ma sì. Ma invece dovresti dire meno male che vai si era a chiedere avveduto. Scusa da Fazio. Meno male. Ma va, ma non hai le palle, senza palle, senza palle. Ha capito senza di aver palle, sbagliato, scusa, senza palle. Ma quando uno a proposito sbaglia, di palle, sbaglia, sì, sì, a proposito sbaglia. Di palle, poi qualcuno. Adesso vi dirò perché dico a proposito di palle. Intanto Signorini da Fazio, dai, Signorini con le scuse penose, diciamo, devo dire la verità, abbastanza penose. No, secondo me ha fatto benissimo. Penose. Troppo tardi. Il linguaggio del gossip è irriverente, ma dall'irriverenza al titolo sbagliato ce ne passa. Quindi era un titolo sbagliato, io pensavo di divertire. Se non ho divertito e ho offeso la sensibilità delle donne, sono il primo a chiedere scusa, perché credo che bisogna avere l'onestà intellettuale di riconoscere di avere sbagliato, tutto qua. Beh, questo ti fa onore. Onore, questo. Certo. L'Italia è un paese dove non si può più dire nulla. Pensate che no, si può dire scusa quando aspetta, si sbaglia. Aspetta, vabbè, questo è il tuo parere. Ne prendiamo mio atto. E anche di Signorini. Lo registriamo, lo registriamo. Ma anche se è rimasto vabbè. Solo tu a senti, difendere Signorini, quella cazzata. Signorini deve avere un ripensamento notturno, perché fino a due minuti prima, insomma, una sorta di resipiscenza notturna. Sì, sì, che ci sia un contrasto clamoroso tra le parole pronunciate prima sì, e dopo. Sì, non è vero. Non c'è questo, è vero, questo è vero. Allora, l'altra cosa incredibile accade ormai in tutti, ormai non si può dire Frocio, non si può dire Checca, non si può dire Finocchio. Vi ricordate l'allenatore l'altro giorno di una squadra minore che ha detto Checca, no, i miei giocatori non voglio che si comportino da Checca, martoriato, omofobo. Persino l'allenatore della Fiorentina l'altro giorno, Montella, ha detto una frase in conferenza stampa parlando di smoking e uomini nudi e tutti scandalizzati, oddio cosa ha detto? buongiorno. Buongiorno. Allora, la prima è questa: dopo lo smoking, che cosa ci si deve togliere in vista di domani? Lo so che da donna te speri che qualcuno si tolga qualcos'altro, però qualcosa ci deve rimanere. Cioè, lo so che da donna speri che qualcuno si tolga qualcos'altro, cioè che si spogli l'uomo, no? Però qualcosa addosso deve rimanere. Cattivo gusto, dicono alcuni. Ma come una battuta! Ormai non si può più dire nulla, meno male che siamo rimasti noi. Noi che possiamo dire il cazzo che ci pare. E non ce ne frega niente dei modi, del buon gusto, di quello Dipende. Sul gelato ha fatto benissimo a chiedere scusa. Però sgombriamo il campo da questa roba qui, occupiamoci di Salvini, dai. Occupiamoci di Salvini e partiamo dalle voci dei signori, dei signori che lo avevano circondato. Al di là delle polemiche sulla sicurezza, non sicurezza, poi abbiamo tempo, molto tempo. Vergognatevi! La pezza siete voi! Siete dei razzisti! Ma vergognati! I nazi! I violenti siete voi che create odio! I violenti siete voi! Mazza! Sei un razzista schifoso! Non ti vogliamo! Devi andare da Bologna! Vai via! Devo dire la verità, a me della vicenda se Salvini ha veramente avvisato di tutti i suoi spostamenti la polizia nel dettaglio, non me ne fotte nulla. Quelli sono affari tra Salvini e la polizia. Beh, insomma, è un leader di partito. Sì, no, ma va bene, se ha sbagliato. È una questione politica. Se non ha comunicato bene i suoi spostamenti, ha fatto male. Lui dice il contrario, che la polizia era al corrente, lo ha detto questa mattina da Spezia, via Radio 24. Alla Spezia l'ha detto? No, a Genova, vicino a un signore che si chiama Spezia. No, lo so, ma hai detto alla Spezia, tipo, pensavo in Liguria, che c'entra la Liguria. Che coglione, parla chiaro, fai la radio. Va bene. L'ha detto a Spezia. No. Quello gira come una trottola. Devo sapere dove va tutto il giorno. Sì, quello vai in Emilia e poi a Capri, poi a cose, a campagna elettorale, campi rom e operai. Salvini. Arrabbi con me, dice a Spezia. Devo sapere che lui parla di Simone Spezia, che abbraccio fortissimo. Ma. Erano avvisati del suo percorso e anche degli orari, in sostanza. Sì, siamo arrivati in ritardo perché c'era traffico in autostrada, come il vostro infotraffico può dire. A proposito, io sono qua. Allora, senti Forchielli che dice questa mattina da Milan, Forchielli, quando dice Salvini doveva uscire dalla macchina e fare vedere che ha le palle. Doveva uscire, cominciare a tirare dei calci, magari perdeva anche un mocassino, rimaneva così, pigliava due cartoni in faccia, capito? 5 giorni di prognosi, però doveva far vedere che aveva, capito? Aveva le palle. Che è una teoria pure, eh? Fermati, esci dalla macchina e tira fuori le palle, Forchielli. No, ma sentiamolo Salvini sui due figli. Lui dice ho due figli, sia altro che palle. Poi quando uno ha due figli. Ha avvertito la polizia dei suoi spostamenti oppure no? Ma ovviamente sì, ovviamente ho due figli, non è che ci goda a farmi distruggere la macchina e ad avere 3 ossessi che come scimmie mi saltano sul cofano e sul tetto della macchina. Non so quanti ascoltatori abbiano mai avuto questa spiacevole esperienza, vi assicuro che star dentro una macchina che viene assaltata, pugna, calci, assassi, accinghiate, dove ti distruggono il vetro davanti e il vetro dietro con due ragazze a bordo, non è il massimo della vita. Ovviamente la polizia sapeva dove eravamo. Ragazzi, ma qui si sposta la cosa, qui si sposta tutto allora, il punto. La polizia sapeva dove erano, tant'è che erano a presidiare il campo rom. Aspetta che mandano una cosa. La Digos. La Digos? No, perché Digos? Non si può dire che gli operai della FIOM devono concordare ogni singolo millimetro di un corteo e poi il segretario di un partito... Tu stai dicendo che la colpa è di Salvini, anche di Salvini. No, io dico che il segretario del partito, che evidentemente è sempre scortato, perché lo so, l'abbiamo visto un sacco di volte... Fermo, che ho il traffico. La Zanzara. Sì, pronto. Sì, Loris? Sì. Sì, ciao, sono Cruciani, Radio 24, ciao, ti disturbo? Ciao. Ciao. No. Senti, volevo chiederti una cosa, volevo chiederti se rifaresti il gesto di saltare sopra quella macchina. Ma più che saltare è stato non riuscire a fermarsi in tempo, ho durato 10 secondi, dopodiché io sono stato lì di fronte alla macchina, volto scoperto, senza nulla in mano, quindi... Mm. Cioè, ma che significa, scusa, non riuscire a fermarsi in tempo? Uno salta sopra una macchina perché salta macchina sopra una macchina. Ma movimento, peraltro, mica. Non sono saltato sul parabrezza della macchina, io salto sul parafango della macchina, scendo nel giro di non so quanti secondi, li può contare guardando i video che ci sono nella rete, quella sì. È l'unica. Ma che volevate, diciamo, fare? Cioè, scusa, che volevi fare saltando sopra la macchina? Questo è da capire. No, in realtà noi volevamo bloccare il passaggio di Salvini e impedire che proseguisse quella che era la sua provocazione razzista della giornata, cioè di arrivare lì al campo Sinti situato all'vicino. Sì. Però scusami, c'è qualcosa che non torna. Se uno fa un gesto del genere, che tu dici un gesto per bloccare la provocazione razzista di Salvini, non è che lo fai perché non riesci a fermarti in tempo. Tu volevi salire sul cofano della macchina per bloccare la macchina. Ma sì, nel senso che noi eravamo lì di fronte poi a bloccare la macchina, cioè la macchina non l'abbiamo bloccata nei 10 secondi in cui sono stato sul parabrezza e sono sceso. Poi ma non è un gesto violento quello di salire sul cofano di una macchina? Quella è una macchina privata di un cittadino e tu gli sali sopra il cofano, provocando anche dei danni, credo, o no? Non è una macchina privata di un cittadino, quella è una macchina, un'auto blu pagata con i soldi di tutti quanti noi. Vuoi sapere quanto costano anche queste provocazioni razziste di Salvini? Rispetto. Ma era solo e senza scorta però lui? In quel momento. Ma no, ma nessuno ha usato violenza nei suoi confronti, tant'è che lui era nella macchina e noi eravamo lì fuori, a volto scoperto, senza niente in mano, senza che non. Cioè non ha rischiato non ha rischiato che gli tirassi una centra in faccia, sostanzialmente. Ma assolutamente no, abbiamo rischiato noi di morire, cioè c'è stata un'accelerata, nemmeno di quelle che si fanno normalmente in queste contestazioni, perché non è la prima volta che un'auto blu viene contestata, ma di solito accelerano a 30 all'ora in modo che poi se metti sotto qualcuno non ti puoi fermare. Ma volete denunciare Salvini per tentato omicidio? Ma vedremo, valuteremo, sicuramente dai video si vede che siamo quello che ha fatto l'autista di Salvini, sotto ordine di Salvini, dichiarato da lui stesso dopo, è stato comunque un qualcosa di molto molto grave, perché andare a 50 all'ora con 5 persone davanti, giornalisti, persone che non avevano nulla in mano da tanto da far temere una reazione di questo tipo da parte dell'auto di Salvini, andare non a 20 all'ora, andare a 50 all'ora contro queste persone, se non è tentato omicidio, quantomeno ci si poteva fare molto molto male. Dopo la macchina è stata sfasciata, quello il punto. Vetri rotti, bastonate, cintate, allora, certo, pietrate. È stata una reazione, anche diciamo nella giurisprudenza c'è una suddivisione se una cosa succede. Ma come una reazione? Scusi, non è che se uno accelera per sottrarsi a un'aggressione perché lui viene circondato, dopo uno gli deve sfasciare la macchina. Poi lei ha tirato qualche sasso? Assolutamente no, io però, ero per terra e ho rischiato la vita di fronte alla macchina. Però i suoi colleghi sì. Gli altri giornalisti, così come delle altre persone che stavano lì, perché uno che ti accelera con un'auto di quelle dimensioni a 50 all'ora e per puro caso che nessuno sia finito con le gambe, con la testa o con qualcosa. Cioè il vero violento, sta dicendo lei, stai dicendo tu, il vero violento è Salvini? Assolutamente sì, con le sue campagne d'odio, quello che dicono in questa fase di crisi sociale, che è un odio sociale, una guerra fra poveri, è la vera violenza che c'è oggi. Ma questo è un altro. Però scusi, hanno fatto bene a sfasciargli la macchina o no dopo? Quella è stata una reazione. Ma secondo te hanno fatto bene o no? Che delle altre persone avevano visto che c'erano per terra delle persone senza sapere se quelle persone erano state. Sì, ma voglio sapere da te, che sei del collettivo antirazzista, non so di quale collettivo. Voglio sapere se hanno fatto bene a sfasciare la macchina di Salvini. Guardi, io le dico che quella è una reazione, nel senso che appunto. Giustificata o no? Giustificata o no? Ci sono cose che succedono, diciamo, però non si può, come si è fatto anche cronologicamente, cambiare gli eventi. Su tanti articoli usciti sui quotidiani. Ma scusi, ho capito quello che è uscito sui quotidiani. Prima viene rotto il vetro e dopo, diciamo, Salvini tenta di investirci. Ieri addirittura Battista, sul Corriere della Sera, scrive l'autista di Salvini non ha saputo. Ho capito, ma se uno viene circondato da 4, 5, 10 persone, è normale che cerca di andare via, che gli dicono bastardo. Il problema è che non eravate lì con dei fiori in mano o anche pacatamente a dire Salvini lì, sembrava, come dire, circondarlo per fargli la festa, sostanzialmente. Oh no, sembrava. Ma la festa con cosa, scusi? eravamo a volto coperto. Ma dopo, qualcuno la macchina l'ha sfasciata, però. Dopo qualcuno la macchina l'ha sfasciata con delle pietre, dunque potevano essere utilizzate anche prima. Insomma, la cosa che voglio capire, perché non si può accelerare quando uno viene circondato? Non lo capisco io. No, si può accelerare a 20 all'ora, non a 50. Ah, ma in quei momenti uno decide, andiamo a 20 o andiamo a 50. E il punto fondamentale è perché Salvini non può andare nel campo Sinti, scusami. Perché dovete impedire a Salvini di andare al campo Sinti? C'è una campagna d'odio propagata tutti i giorni dai luogotenenti di Salvini qui a Bologna, così come in tutto il resto d'Italia, che di giorno fanno delle dichiarazioni incendiarie, di notte ci sono i loro sgherri di Casa Pound che vanno a dar fuoco a campi rom, accoltellano chiunque abbia il colore. Secondo te la Lega è da mettere fuori legge? Assolutamente sì, perché loro non sono nient'altro che... Cioè, come il Ku Klux Klan in America? Diciamo che si dividono il lavoro. Salvini fa di giorno quello che incendia l'odio sociale, la guerra fra poveri, con le parole, di notte i suoi sgherri di Casa Pound, che sono andati a Milano, fanno tutto il resto del lavoro. Io però continuo a pensare che uno che sale sopra una macchina, come hai fatto tu, a parte che ti potrebbero denunciare, Salvini forse ti denuncia, uno che sale sopra una macchina, cioè non è che hai cercato di fermarlo mettendoti come Gandhi in mezzo a una strada con le braccia alzate, sei salito sopra una macchina, era una chiara forma di... Cioè uno che vede, Salvini ha detto una scimmia, oggi, una scimmia. Scimmie che mi saltano. Un altro tono di quello che usano. Se lei va a vedere anche i commenti nei miei confronti da parte dei forum della Lega Nord, beh, non è che quelli nei confronti di Salvini. Lì si capisce chi sono anche questi, appunto, qual è il brodo di coltura che utilizzano queste cioè queste saltare sopra il cofano di una macchina è un gesto pacifista, secondo te? Allora, io sono saltato sul parafango per 10 secondi. Vabbè, ma quello che è? Per terra. Se poi, da questo si vuole creare... Sul parafango lì, no, perché si vede un piede sopra il cofano, non è solo sul parafango, si vede chiaramente bene, un piede sopra benissimo. Il cofano. Non oltre 10 secondi. Quando sono stato investito io con i piedi per terra, so solo questo. Vabbè, ma quello, lasciamo perdere i dettagli. Sono stato investito io e anche dei giornalisti sono stati investiti. Ma perché sei salito sopra il cofano? Io non è che vado a fare una manifestazione e salgo sopra un cofano per bloccare la macchina. È stato 10 secondi in cui può capitare. Dopo 10 secondi non ero più sul cofano e nessuno aveva né bastoni né catene né volte. Ma lo rifaresti? Lo rifaresti? Di bloccare Salvini e il suo razzismo, certo, e sono pronto anche ad andare in galera per questo, perché di fronte alla crisi sociale, di fronte ai problemi creati da quelle che sono delle diseguaglianze che crescono giorno dopo giorno, appiccare la guerra fra poveri, tornare a quelle che sono state la vergogna dell'Europa, del nazismo, del fascismo, della pulizia etnica, sono pronto di nuovo a bloccarlo. Grazie, ciao. Saluti. Di fronte a questo che dice che sfasciare la macchina è una reazione rispetto all'accelerata che doveva essere a 20 all'ora invece che essere a 50 all'ora, amico mio, non ci sono parole, ma io vorrei capire cosa ha sbagliato Salvini secondo te, perché al di là della questione politica andare o no in un campo rom che fa Salvini, parte... Fermati, un attimo, leader politico, segretario della Lega, dice oggi la Sarzanini sul Corriere, non abbiamo motivo per... Ma lui dice il contrario, Hai visto il filmato? Lui dice il contrario. Allora, come mai la Digos non era con lui, e io ho visto quella scena in cui era veramente spaventato, forse lo manderai dopo, c'erano i cronisti attorno a lui che gli dicono, lui stava improvvisando una conferenza stampa, il campo era più lontano e lì c'erano tutti gli agenti, lui è arrivato da un'altra strada con la macchina, i cronisti arrivano e dicono, oh Matteo, guarda che i centri sociali hanno visto che sei qui e stanno arrivando qua. Dunque non ho capito. No, ma dunque, per non mettere a repentaglio la vita di nessuno e per fare la passeggiata che doveva fare al campo Rome, va bene, legittimo. Hai fatto un paragone oggi con i Ku Klux Klan. No, cioè che vanno a un convegno di neri. Ho detto un'altra cosa oggi, se vuoi rimandarlo, dalla signora Merlino. Ho detto che se uno del Ku Klux Klan decide di andare a un congresso di afroamericani e dire salve, sono qui e non va adeguatamente in una condizione gli afroamericani, ma non sono dicono, i rom che l'hanno aggredito, sono 10 esatto. Che non c'entravano un cazzo, allora, 10 delinquenti, ovvio, i centri sociali sono lì per fare casino, ma i centri sociali usano quel palcoscenico per fare casino. La polizia a cosa serve? A tutelare le persone, in genere dovrebbe servire a questo, no? Se lui è arrivato lì e non aveva i suoi soliti agenti di scorta, evidentemente voleva arrivare a piedi. Ogni tanto ci lamentiamo campo. Perché ci sono troppe scorte, sono diverse, non sono tutte uguali. Fermi tutti abbiamo la pubblicità, poi torniamo 800 24 00 24, torniamo col botto, col botto. Ma te sei una fava, te tutto quello staff di merda, la radio schifosa marcia di quelle zanzare morte. La zanzara. stupenda trasmissione, sempre la migliore. Cala, cala. Lei continua a fare la zanzara, ma lei deve cambiare nome al suo programma, perché fin quando si presenta come zanzara è chiaro che tutti si difendono e prendono le ciabatte. Parenzo, se non ti sei dimenticato, Razzi alla fine della scorsa settimana, cioè venerdì, ci ha dato anche una notizia, cioè che ha detto di no all'Isola dei Famosi definitivamente, dopo aver aperto, dopo averti dato la notizia che aveva ricevuto la telefonata e c'era stata una specie di trattativa, notizia fondamentale, la vera trattativa, non è quella tra Stato e mafia. Aspetta, mi è arrivata una notizia sul cellulare che non capisco, sto cercando di capire. Vabbè, Razzi in realtà dice, se me lo chiede Berlusconi però... Se Berlusconi mi chiede di andare, sapete che quest'anno l'Isola dei Famosi, che già ci ha rotti i coglioni, è arrivato prima anche di... a te un SMS adesso? No, no, non è arrivato nessun SMS. Mi fai finire questo discorso, però. Se glielo chiede Berlusconi, che è l'editore dell'Isola dei Famosi di quest'anno, alla fine andrà, dice Razzi. Poi, sai, la risposta è: non vado all'Isola dei Famosi. No, almeno adesso dico no. Dopo finito, perché ma andare... se Berlusconi ti dice vai, tu che fai? Se ti dice vai, certo che vai. Beh, il capo ha sempre ragione. Per cui se Berlusconi ti dice via libera, puoi andare all'Isola dei Famosi. Beh, ma dopo a vedere se veramente, se è uno scherzo, vabbè, che facciamo. Vabbè. Fatto discutere le frasi di Giuliano Ferrara a TV Talk, caro Parenzo. Sì, le ho viste sulla internet. Sono sulla internet. Totalmente d'accordo con Giuliano Ferrara, temevo, ovviamente. Temevo. Tranne che in un paragone che effettivamente non ci sta, però, quello tra Giuliani e Cucchi, ma semplicemente perché i due casi sono molto diversi, non c'entrano assolutamente nulla, sono due casi molto molto diversi. Lui dice sì, era uno come Cucchi, ma lui lo voleva dire perché il caso Cucchi e il caso Giuliani vengono utilizzati allo stesso modo per mettere in mezzo le forze dell'ordine, cioè le vere vittime. Dice Ferrara, non sono loro, e in questo c'è un accostamento, però francamente i due casi sono molto diversi. Giuliano Ferrara, incazzatevi pure dopo aver ascoltato queste cose di Ferrarone. Ve lo ricordate il G8, no? Sì. Era una situazione complicata, appunto, bruciavano le banche, i negozi, eccetera. Un carabiniere impaurito si vede venire avanti un ragazzo, un povero Cristo, anche lì una specie di Cucchi, questo povero Carlo Giuliani, che con bello, prestante, sono sempre tutti dei Guevara, queste vittime, ed è normale che sia così, Guevara è il prototipo della vittima in fotografia, gli vuole gettare contro un estintore, che non è precisamente un fiore, una rosa. Questo tira fuori la pistola, spara e uccide Carlo Giuliani. Ricordate però le immagini, la gente, a proposito del discorso che faceva Freccero, che dice la fotografia, il Vietnam, la fotografia è sempre dalla parte dei deboli contro il potere, non è vero niente, lì il debole era il carabiniere che era assediato, che lo volevano ammazzare, che si è difeso. Veramente, abbiamo visto in televisione montati per alcuni mesi le immagini delle forze di polizia che tentano di difendere il diritto democratico dei capi di governo a discutere tra loro. Scusami, ma le impazzite di Black Bloc, no, che mettono a pericolo la città, e abbiamo creduto che la vittima fosse Carlo Giuliani. Puttanata. Ma lo sai, Parenzo, chi ha preso le parti di Salvini in queste ore? Ma non diciamo niente su questo di Giulianone? Beh, ma che vuol dire? È chiaro non che diciamo la fotografia niente. Dice, la fotografia... È chiaro che c'è una diversità abissale. Da una parte c'è un cittadino che viene preso dallo Stato in consegna e esce morto. Ma sta dicendo dall'altra un'altra cosa. C'è una... No, io sta dicendo dell'utilizzazione della fotografia e delle immagini. Ma non c'entra nulla l'utilizzazione della fotografia. Ma in quello sta parlando Ferrara. Ma non c'è nessun paragone possibile, nessuno. Nessuno, vabbè. Nessuno. Ti piace il paragone? Ma no, ma il paragone è chiaro. Lui il gusto dice della polemica, la fotografia paradosso di Cucchi viene utilizzata dalla famiglia. Ma per forza mesi è morto. Aspetta, è un processo. No. In un processo viene utilizzata. Anche fuori con la stampa viene utilizzata. Aspetta, ma è evidente. Aspetta, sto dicendo, viene utilizzata in maniera molto tranquilla, molto pagata. Viene utilizzata la fotografia per diffondere una tesi precostituita, cioè dire che Cucchi sia morto per le percosse della polizia penitenziaria oppure dei carabinieri. Questa è la tesi precostituita di quella fotografia. E la stessa cosa è stata utilizzata con Giuliani, dice Ferrara, perché per anni si è parlato dei poliziotti cattivi e non di quelli che hanno aggredito il signor Giuliani, il poliziotto là, come diavolo si chiamava. Ma sai chi dà ragione a Salvini in questa vicenda? Alda Deusanio, incredibilmente. Ma non so, ma ciao, ragazzi, anche non mi presentate come quella che difende Salvini, che non mi taglio le vene. Dai. Beh, ho capito, Alda, però è vero, hai detto che in questo caso Salvini ha ragione nei confronti dei signori rom, di quelli dei centri sociali. Ha ragione perché la violenza dei centri sociali ne hanno fatto una vittima. E gli hanno offerto, come gli hanno dire, un favore, gli hanno fatto un favore. D'argento. Cioè gli hanno fatto un favore, tu dici? Certo che gli hanno fatto un favore. Salvini è andato lì perché in piena campagna elettorale . E molto spesso i nostri politici usano le cosiddette emergenze pro domo propria . E i centri sociali lo hanno attaccato violentemente, con la violenza ne hanno fatto una vittima, quindi Salvini ha ottenuto quello che voleva. Cioè, per cui secondo te un po' se l'è cercata? No, non è Salvini. Con le frasi che ha detto prima. I centri sociali che hanno fatto, no, d'accordo, ma un eroe per caso. Ma certo che Salvini è andato lì mica per fare un gesto umanitario. Salvini è andato lì perché è in campagna elettorale. Ok, ho capito, ma anche perché una settimana prima un consigliere sì, era stato preso a schiaffi, schiaffeggiata da una ragazza Sinti, da una bambina, una giovane, mi sembrava una ragazza. No, una ragazza, sì, una ragazza. E quindi è andato anche per rispondere a quel gesto di aggressione che ha visto la consigliera leghista soggetto. Cioè tutto, alla fine tutta questa storia ha tutto a vantaggio di Salvini, dice. Salvini ha saputo gestire questa cosa benissimo. I centri sociali, come sempre, sono stati cretini e violenti, perché chi è violento è cretino, non è un imbecille. Chi usa la violenza e non la ragione vuol dire che è il debole ed è l'imbecille di turno, e ha dato ragione a Salvini utilizzando quello che molti italiani, me compresa, hanno come dire di diffidenza nei confronti dei rom, degli zingari. Degli zingari. Degli zingari, che non è un termine ufficio. No, per carità, ma perché? Noi gli italiani sono abituati a vedere gli zingari. Cioè tu quando vai in autobus, ci vai in autobus qualche volta? Io ci vado sempre in autobus. E vedi uno zingaro, che fai? Ah, mi tengo la borsa stretta, però non solo quando vedo lo zingaro, appena vedo qualcuno con un'aria un po' sospetta, anche perché sono stata buffeggiata diverse volte, due volte da uno zingaro, da una zingarella piccolina, perché poi sono anche molto abili. Quello che non accettano gli italiani cosiddetti democratici, perché gli italiani sono democratici e ospitali, i zingari sono presenti nel nostro paese da 600 anni, per carità, però la loro integrazione è talmente lenta che ci impiega quanto la costruzione della metropolitana a Roma. Cioè, diciamo la verità. È un'immagine bella. No, però diciamo la verità. La verità è questa: è che nessuno lo vuole ammettere. Ma tu, quando uno vede uno zingaro, quando tu vedi uno zingaro intorno a te, ma scappi a gambe levate, li guardi male, perché sono spesso vestiti in maniera respingente, come minimo, per dire. Per cui, quando li vedi in autobus, che cosa fai di solito? Scappi, te ne vai, cerchi di allontanarti o no? Girare strada, anche perché se per caso gli dai 20 centesimi e non un euro, te lo tirano addosso, ti mandano le maledizioni. I loro campi nomadi sono di alta mortalità, oltretutto, perché sono veramente tenuti in uno stato di indecenza, di inciviltà. Ora, che sia colpa del nostro Stato, che sia colpa loro che non hanno una corretta educazione igienica, perché potrebbero anche darsi da fare loro. Cioè, io sono stufa di dire è lo Stato che lo deve fare. Kennedy diceva: non chiederti ciò che il tuo paese può fare per te, ma ciò che tu puoi fare per il tuo paese, poiché sono cittadini italiani. italiani, la gran parte di loro sono cittadini italiani, si adeguino, che si adeguino, domani che se lo facciano pure loro. Te hai mai visto dei camerieri, sì, non so, o raccoglitori di stagionali o cose del genere? Spesso non vogliono lavorare, non è che non vogliono lavorare, è che hanno una cultura diversa dalla nostra, una cultura che io non, spesso alcune cose della loro cultura non le accetto, cioè trovare questi con i bambini, che educano i bambini a fare furto con destrezza, non mi piace. Guarda che poi qualcuno ti accuserà di razzismo prima o poi, qualche associazione ti porterà in tribunale. Ve lo ricordate un po', qualche mese fa, il direttore di un supermercato, non mi ricordo se a Cagliari, si aveva messo un annuncio, cartello, aveva messo un annuncio, un cartello in cui diceva per favore proprio cliente di non dare monete allo zingaro che stava là davanti. Gli hanno fatto togliere. Stava lì da tempo, da anni. Perché? Perché gli impiegati si erano lamentati, quello zingaro ogni giorno a fine giornata andava alla casa e si faceva cambiare la moneta in carta moneta, e quindi quelli hanno capito che guadagnava fra i 60 e gli 80 euro al giorno. Si sono incazzati col direttore e hanno detto quello guadagna più di noi senza fare nulla. Allora il direttore poverino ha detto basta, non dategli più monete, e la comunità rom gli hanno dato del razzista, del nazista, del non ma so che fanno cosa. Quei bambini nei campi rom secondo te, gli zingari? Che cosa fanno con i bambini? Io veramente, la mia diffidenza nei confronti di Zingari è nata tanti anni fa quando ho fatto un'inchiesta sull'accattonaggio e ho trovato dei bambini che addirittura, se non riportavano a casa quello che la loro comunità credeva, le prendevano di santa ragione. Ce n'era una addirittura che aveva vari segni di violenza addosso. Vabbè, Caralda, ti abbraccio. Dire, detto questo, questo non vuol dire essere antidemocratici o razzisti. Ma è la realtà, è la realtà. No, però io voglio dire Aldona questo. Però quelli che vengono nel nostro paese vogliono fare l'infibulazione delle loro figlie, a tutto ciò che è una cultura incivile e crudele. Un attimo solo, Borsa. Siamo ad alti livelli qua, eh. La Zanzara. Mi hanno anche detto che la vostra trasmissione va molto forte, di molto successo, ma forse piace la cattiveria. Questa è Romina Power, quella che in una canzone crede fortemente alle scie chimiche, amico mio. Ma ovviamente non è la sola a credere a Bilderberg e ad altre follie del genere, perché c'è un signore dei 5 Stelle, caro Parenzo, un signore dei 5 Stelle, un deputato della Repubblica, che non so nemmeno come si chiami, forse Coletti? Come si chiama? Coletti, quello che ha fatto la denuncia alla Procura della Repubblica. Sì, c'è un tizio che si chiama Coletti, del Movimento 5 Stelle, che ha fatto una denuncia che alla Procura della Repubblica. Che ha contribuito a portare in Parlamento, ma questo che è un ho contribuito in minimissima parte a portare in Parlamento, in minimissima parte. Beh, che lo cosa riconosco. Ha fatto questo signore ha qui oggi? Ha fatto una denunzia, come direbbe l'avvocato Dormina, professor Dormina, una denuncia alla Procura della Repubblica per denunciare il patto del Nazareno. Beh, è geniale. Allora, uno denuncia, va alla Procura della Repubblica con le carte bollate. Guarda, hanno fatto un accordo politico. Hanno fatto un accordo che si chiama il patto del Nazareno. Sì. Patto del Nazareno. Patto del Nazareno. Magari la Guzzanti farà un film adesso sul patto del Nazareno. No, ma quello l'ha già fatto, perché indirettamente ha detto che la trattativa è la parte iniziale del patto del Nazareno. Un altro film. No, ma il signor Coletti, io vorrei capire se qualcuno apre un fascicolo, dico divento pazzo. Se qualcuno apre un fascicolo sul patto del Nazareno. Perché poi non hai visto? No, ma non credo. L'hanno aperto contro i gnoti. Come no? Ma questa è la cosa divertente. Ma questa è l'Italia. È l'Italia contro i gnoti. Ma come i gnoti? Si sa chi c'era lì, ma non c'è nessun reato che si può ipotizzare. Signor Coletti. Come i gnoti. Poi dice i gnoti. Poi dice che uno non si deve mettere a ridere. Esposto contro il patto del Nazareno, il deputato Coletti. Verificare l'esistenza e la legittimità. Capito? Cioè, secondo questo Coletti ci dovrebbe essere un giudice che si impegna, al di là dell'apertura del fascicolo, che è un atto dovuto, come sai, no? Un atto dovuto, perché in Italia c'è purtroppo l'obbligatorietà dell'azione penale. Secondo questo Coletti ci dovrebbe essere un magistrato che si mette lì, briga, per accertare l'esistenza e il contenuto del patto del Nazareno, se il patto sia stato effettivamente preordinato a pilotare illegittimamente le riforme in atto del paese e a decidere chi nominare come futuro inquilino del Colle. C'è un'inchiesta anche sul futuro, capito? Sì, certo. Ma ragazzi, ma di cosa si sta parlando? Questo Coletti dovrebbe essere internato, cioè questa è la realtà. Ci dovrebbe essere un'ambulanza che dice: senta, signor Coletti, siccome lei ha fatto questa denuncia, lo prendi e dice: vabbè, ha bisogno bisogno forse di qualche no. Ma di, qualche giorno con di noi qualche per capire, giorno, per qualche, capire, di qualche per giorno, capire. Solo qualche giorno, solo qualche giorno. Per capire se c'è qualcosa che non funziona. Perché al di là del fatto che probabilmente l'ha fatto per arrivare sui giornali, no? Può darsi anche questo, ma in realtà no, perché loro speriamo non lo fanno. Speriamo che esatto. No, ma perché loro non lo fanno. Sarebbe nobile se fosse così. No, guarda. Ma non lo fanno in realtà, non lo fanno per andare sui giornali. Poi lo fanno perché sono veramente convinti che la Procura della Repubblica debba agire, che un magistrato debba agire per scoprire i misteri del patto del Nazareno. Tu lo capisci, no? Ma no, per me è una follia più totale, assoluta, cioè aiuto, hashtag aiuto. Vabbè, dai, andiamo con qualche ascoltatore, dai. Francesco, Reggio Emilia. Sì, ciao, buonasera. Dimmi, dimmi. Volevo solo una cosa velocemente. Se in un paese, a riferimento a Salvini, che si è comportato praticamente, non si può andare a visitare un onorevole perché c'è qualcuno che praticamente con quei ragazzi l'hanno menato, cercato di fermare, vuol dire che siamo un paese nazista. E secondo me è d'accordo con me anche Parenzo, che i nazisti andrebbero forse, ma non in maniera no scusi, però non siamo di fronte a nessun nazismo, siamo di fronte a un gruppo di persone. Non ho capito di che sta parlando Francesco, però scusi, si spieghi allora, meglio. Io ho sentito quel ragazzo sì, quello che è salito sul cofano della macchina, che è stato nostro ospite prima, sì. Il signor Narda, allora il signor Narda, quello è un nazista. Vabbè, un nazista nazista, non esageriamo, il nazismo è un periodo storico preciso, c'erano cioè i nazisti, non mi pare un nazista, secondo me è un violento, un antidemocratico, quello che è. Poi se lei vuole dire che i nazisti erano violenti, antidemocratici, sicuramente sì, però non solo loro. Una sciocchezza. Sì, però io se uno non sì, può i veri fascisti paese. Sono quelli, ma è evidente che i veri fascisti, se uno vuole dire utilizzare la parola fascismo così in generale, i veri fascisti sono quelli. No, usiamo le parole giuste. I veri fascisti, tu spesso utilizzi questa parola, i veri antidemocratici, quelli che non vogliono far parlare la gente, sono quelli lì. Sono quei signori lì che hanno circondato la macchina di Salvini. Sono degli questo antidemocratici, è chiaro. Sono violenti e antidemocratici. Ma la protesta, io dico che la protesta ci può anche stare, ma non ma saltare sì, sulle macchine, bloccare la protesta, quella con gli striscioni, quella in cui anche va bene, si urlano. Sì, ma per vai via, quello va benissimo, cioè ci sta, quante volte è capitato. Quelli volevano impedire con la forza e con la violenza esatto, l'entrata di Salvini nel campo Roma. E questo punto. È gravissimo. Basta, ma basta solo sì. Questo, non c'è altro. No, ma c'è non anche c'è altro. Dell'altro, ma perché l'altro si poteva è evitare quella roba. Si cioè, poteva evitare incontrare quelle due. Vabbè, allora Salvini secondo te ha provocato. Secondo te Salvini ha provocato lo scontro. Lì c'è un problema, che Salvini voleva andare da solo con la sua macchina, ma con la persona che lo accompagnava. Ma tu lo capisci che i dettagli sono inutili in questo caso? Ma non sono dettagli. Ma sono inutili perché tu sei talmente attento con gli operai della Fiom che stavano trattando il cambiamento del corteo e si sono presi la randellata sulla testa perché stavano forse provando a trattare non erano armati di mazze e di bastoni, erano ma questo lo dici tu che stavano trattando? Beh, assolutamente. Allora, vabbè, mettiamo poi che se la legalità vale per tutti, no? Allora lì hai un segretario della Lega che annuncia urbi et arbi, come dici sempre tu, che va a fare la passerella a Bologna e anche qui va bene, facciamogli fare la passerella sui Rom a Bologna perché ci sono le elezioni in Emilia Romagna. Ma come facciamogli fare? Ha tutto il diritto pure. Ma la passerella, ma dici detto tu che la passerella è andata a io verificare che cosa succedeva in quel campo Rom, è andata vabbè a verificare quello che accadeva in quel campo Rom. Guarda caso arriva la vigilia delle elezioni, ma ci sta, ti sto dicendo, e va allora bene, accettiamo la passerella preelettorale, dopodiché vabbè, è sotto scopo. Ma non se fosse accaduto alla tua amica Chienghe, fosse accaduta la tua amica Chienghe, non saresti stato così attento alla polizia, avresti detto fascisti, antidemocratici, bastardi. Ma la mia amica Chienghe avrebbe comunque tenuto, sarebbe tenuta ad avere una questura. Ma scusami, ma che vuol dire? È sotto scorta. Vabbè. È arrivato al casello. Ma tu. Ma lui dice, che in realtà ha avvertito di tutte le mosse la questura e la polizia. Allora come mai? Ma io non so se è colpa della questura, ma non mi interessa nemmeno. Ma non è interessante invece, perché è importante di ordine pubblico. Per me no, per me, certo non è importante. Che è importante, per me non è importante, è una questione di ordine pubblico, qualcuno poteva farsi anche più male in quel contesto, per me è importante, per te è sia importante per la salute di Salvini sia per quello che ha rischiato di essere travolto dalla macchina. Non è un paese normale quello in cui uno, un leader di un partito politico come la Lega Nord deve andare in un campo Rom, no, per andare in un campo Rom deve essere circondato da 80 poliziotti. No, Antonio dalla provincia di Vicenza, la cosa era sarebbe stata così, però, Antonio scusami, dalla provincia di Vicenza era chiaro che sarebbe stata così. Vai, vai Antonio, vai. Buonasera, grazie dell'ospitalità. Io volevo soltanto così allegarmi, diciamo, a questo discorso un po' diverso, però. Io ho sentito oggi al telegiornale che parlavano di Romania, adesso non so, ecco il discorso degli zingari eccetera. Quelli eccetera. Sono italiani peraltro, quei sinti di quel campo. Vabbè Antonio, di cui vai, vai al sodo, su italiani, dai, forza. No, voglio dirti, sono entrati in casa di questo signore. Quale signore? Volevano prendere le chiavi della cassaforte. Vabbè, un furto, lei sta descrivendo un furto in una casa degli italiani, bene, di un italiano, bene, poi... Volevo dire, questi cosa facciamo? Io volevo sentire... Ma questi chi? Cosa facciamo? Chi? I ladri vanno presi, messi in processati, certo. Condannati e eventualmente messi in galera, punto. Ammazzano le persone. Ma se uno ammazza le persone, va preso e condannato all'ergastolo, amico mio, cosa vuole che le dica, Antonio? Lei che vuole fare con i Rom? Non ho capito. No, i Rom io li eliminerei, perché come... Ma in che modo? In che modo? Ma intanto proverei a mandarli via, se è possibile mandarli via. Mandarli qualora via. È impossibile, lei lo sa benissimo che ecco, è impossibile. Qualora, ecco. Cosa qualora fosse impossibile, eliminare che fa? Eliminare i Rom, pazzesco. Come fa? Con l'estintore, che fa? Con la fiammosidrica, con le bombe? Allora li teniamo qua. No, ma quando lei dice eliminare, ma vanno i Rom, eliminati di forza, cioè vanno uccisi, non ho capito che uccisi, ma eliminati. Eliminati, non certo. Non è così semplice. No, non uccisi, vanno eliminati. Ma cosa vuol dire? Ma si rende conto o no? Gianni da Chieti, sentiamo Gianni da Chieti. Poi dice che uno non si deve arrabbiare, stai ma calmo, no, tu ti devi arrabbiare quando la pressione se no si alza. Misurati la pressione, c'è un medico lì a Radio 24. Stai, c'è il medico di turno, fallo venire un attimo. Gianni da Chieti. Stai pacato, non urlare, e uno dice eliminare i Rom. Ma non uccidere. Ma Gianni da Chieti, signor Gianni da Chieti, però stai calmo. Sì, prego Gianni. Posso, grazie. L'ho sentito prima, poi ho interrotto la comunicazione. Sì. Di quando quel ragazzo ha descritto la scena di Salvini che è andato lì a Bologna, eccetera, eccetera, poi ha chiuso la telefonata e hai concluso dicendo quella battuta, dicendo lui è un delinquente, i delinquenti, cioè hai etichettato delinquente quel ragazzo. Ora, beh, è un delinquente, prescindere... sì, secondo me è un delinquente, uno che sale sopra una macchina per fermare Salvini o chiunque altro per... è un delinquente, cosa vuole che sia? Uno che impedisce ad una persona di entrare, allora, in un posto saltando, se uno mi sale sopra la macchina io penso che sia un delinquente. È evidente che Salvini abbia provocato, perché lui è abile a provocare, che abbia provocatamente si è andato provocatoriamente lì da solo per farsi un po' di pubblicità, cavalcando l'onda cazzi di razzismo. Suoi, anche però, se razzismo lo dice lei, razzismo lo dice lei, va benissimo che lei dica razzismo, no, se lei dice razzismo va bene. A prescindere dal fatto che poi a Salvini si dovrebbe chiedere, ma scusami, caro Salvini, che ti scagli contro gli extracomunitari, ma quei 40 milioni di euro che il tuo bel sito ha portato in Tanzania e a Marco. Ma cosa cazzo c'entra, scusa? Ma come cosa c'entra? Ma cosa c'entrano i diamanti della Lega? Ma come cosa c'entra? No Gianni, però io vorrei arrivare alla conclusione. Secondo lei, secondo te, va bene, secondo te un po' se le meritava. Se vuole dare l'esempio, Salvini doveva, come quella pagliacciata di 2 anni fa quando sono venuti fuori tutti i nodi al pettine della Lega che hanno fatto il comizio. Che cosa deve fare? Che cosa doveva fare? Allora deve dire, intanto io do l'esempio, invece di licenziare 70 persone della Lega, io voglio i soldi indietro, io esigo. Ma cosa c'entra? E allora inizia a riprendere un po' di credibilità, perché Salvini per assurdo su alcune cose potrebbe anche avere ragione. No, ma io non ho capito una cosa, Gianni, cosa... Ma cosa diavolo c'entra il fatto che lui è andato in un campo rom e gli si sono parati davanti? Ma come, Cruciani? Ma lei è un giornalista e anche in gamba. Allora, lui vuole distogliere semplicemente l'attenzione. Vuole distogliere l'attenzione. Pensa che quei 40 milioni che si è fregato con i soldi nostri, i soldi nostri. Ma è roba vecchia, non ne parla più nessuno ormai. È roba, ma certo, perché nel senso l'ha già fatta questa operazione di cancellare il passato. È stata già fatta, cioè sta facendo campagna elettorale in Emilia Romagna. Punto. Ma come? Fermo lì, 30 secondi. 40 milioni li buttiamo così nel vabbè, Gianni, ci siamo incazzati con la Lega, ne abbiamo dette di tutti i colori, ladri di Stato, Roma ladrone eravate voi, l'abbiamo detto anche qui, li abbiamo attaccati a destra e a manca. Se questo è salito nei sondaggi ha preso più voti, ma che cazzo vuole da me? Si rivolga agli italiani, no? I love you, I like a virgin. La Zanzara. Ma Ma che cazzo dici, pare? Ma che cazzo dici? Allora, dobbiamo dire una cosa che riguarda Casa Pound. No, fermo, fermo, perché adesso chiamiamo, mi sto scrivendo con uno dei portavoce di Casa Pound, che è Iannone, Gianluca Iannone. No, allora dico, che no, chiede di intervenire, io gli ho detto per me non c'è nessun problema, può intervenire in diretta e lui... No, però aspetta, aspetta un attimo, dunque, cerchiamo di intervenire Iannone. Non adesso, dopo le 8, cerchiamo di ricapitolare la situazione. Cioè la situazione è questa, c'è un signore che abbiamo intervistato prima che si chiama Narda ed è quello che è salito sopra signor la macchina. Signor Narda. Esatto. Per comodità chiameremo, come dire, non la scimmia, perché è il termine che ha usato il signor Salvini. Siamo quello che è il balzatore sul cofano, esatto, sul cofano. Chiamiamolo per comodità. Come nel film quello con Kevin Costner, balzatore sul il balzatore cofano. Sul cofano, il balzatore per sul cofano, per comodità. Balzatore sul cofano. Come facevano con gli indiani, balzatore sul cofano. Balzatore sul cofano. Balzatore sul cofano ci ha detto, ci ha detto signor balzatore a questo punto, no, signor, nel film, nel film quello sugli indiani di Kevin Costner, l'ho visto. Realtà si chiamano senza il, no? Balzatore sul cofano. Allora, balzatore sul cofano ha detto che cosa? Ci ha detto, secondo lui, che Salvini è, diciamo, la mente, poi ci sono i suoi sgherri, così li ha chiamati, di Casa Pound, che di notte accoltellano le persone che non la pensano come loro e bruciano i campi rom. Questo una l'ha cosa. Detto il balzatore sul cofano. Balzatore però. Sul cofano, cioè, non l'ha detto la Zanzara, né Cruciani, né Prezzo, né la trasmissione, la Zanzara. L'ha detta questi. Dunque, se i signori di Casa Pound hanno qualcosa da dire, si rivolgessero a balzatore sul cofano. Però, se vuole intervenire per me, ma Iannone, sì, ma noi non c'entriamo una mazza. Mi chiami balzatore sul cellulare adesso, mi manda e mi dica se intervengo. Io giro il suo numero, se lui vuole, alla regia di Milano. Signor Iannone, benissimo. Noi non c'entriamo una benedetta mazza. Forse avremmo dovuto dire no, se la però insomma, eravamo anche in un'intervista normale. Cioè, non è che si dicono tante cose. Il signor balzatore sul cofano ha detto che Casa Pound brucia i campi rom a Bologna. Non l'abbiamo detto noi, dunque prendetevela con loro. Abbiamo con noi, beh, un tuo amico, Parenzo, Marcello Zuinisi, rappresentante dell'Associazione Nazione Rom. Buonasera, signor Zuinisi. Mai incontrato, però. Ciao, buonasera. Come andiamo? Amico, non lo so io cos'è. Come andiamo? Andiamo che io, visto che c'è chi vuole, diciamo, rimandare a casa sua, no, eliminare i Rom. Vabbè, utenti, questo... Allora inizierei con levare la maglia della nazionale Andrea Pirlo, visto che è un sinto, e lo rimandiamo a Brescia. Ma lui ha sempre smentito però questa cosa qua. Lo so, però... La sua origine, allora prendiamo sinti, inibendola, gli leviamo il governatorato della regione Puglia, visto che è un sinto, lo rimandiamo a casa sua. Ma che sua. Sinti pure Vendola, mo? Ma non sapevo questo. Ma questo chi lo dice? Chi lo dice? Vendola è sinto. Me l'ha detto al termine della manifestazione antirazzista, al termine dopo che furono assassinati due lavoratori senegalesi in Piazza del Mazza. Cioè io non l'ho mai saputo. Sinti. Anche mi ha detto, sai Marcello, io sono un sinto. Cioè, secondo Marcello Zuinisi, Associazione Nazione Rom, Vendola è un sinti. Beh, non c'è niente, no, di male. Per... Niki Vendola, sì, Niki Vendola mi ha detto io sono un sinto, per cui secondo lui è un sinto. Di origine sinto, sinti. Esatto, di origine esatto. Sinti. Dunque lei dice anche, siccome anche Charlie Chaplin era un Rom. Ma adesso mosso tutti i Rom, Zuinisi. No, non sono tutti i Rom, solo Rita Hayworth, Charlie Chaplin, Madre Teresa di Calcutta, alcuni. Pure Madre Teresa. Sì, anche Madre Teresa, nata in Albania, era di origine Rom. Di origine Roma, anche pure il Papa magari adesso, pure Papa Francesco. Pure Papa Francesco, no. No, Papa Francesco è amico dei trotskisti argentini. Dei trotskisti argentini. L'ha dichiarato lui. Secondo me anche Cruciani è un nome di origine sinti. Ma io non me ne vergognerei, guarda, ma io non me ne vergognerei per niente. Saresti la vergogna del popolo sinti tu per quel che dici. Ma no, però. Per quel che dico, perché? Per quel che dici, perché? Sicuro. Cosa ho detto? Perché dici cose terribili? Ma cosa ho detto? Ma andiamo avanti con il signor Zuinisi, che però tu sei mio amico, ma io francamente siamo mai conosciuti il signor Zuinisi, non mi pare. A voi? Sì, ci siamo già... No, Parenzo. Poi adesso sentirò cosa dici. No. Mai. Scusi un attimo, io voglio detto, sapere da lei questa cosa qua. Vogliamo dare una solidarietà a lei, che è il capo dell'Associazione Nazione Rom. No, sono illegale rappresentante. Vabbè, illegale rappresentante, uguale. Insomma, quello che parla di solito a nome dell'Associazione Nazione Rom, bene, che abbiamo già conosciuto nel caso della stazione di Firenze. Della stazione di Santa Maria Novella. Ah sì, lei propose quella cosa molto bella. Sì. Allora, io voglio vogliamo dare la solidarietà al signor Salvini per quello che è successo? Il parabrezza, io già gliel'ho data, gli ho scritto a Salvini, mi dispiace per il parabrezza. mi dispiace veramente. Beh, per i parabrezza, perché, non solo perché per noi, perché io ero al Campo Sinti, ho chiamato Alan Fabbri, che è il suo candidato alla regione Emilia-Romagna, gli ho detto: guarda, io sono qua con i cittadini italiani finti, ero col cugino di Moro Orfei, ti stiamo aspettando. Ah, fra 10 minuti arriviamo. Eravamo con la chitarra. Cioè, lei era a Bologna? Io ero al Campo Sinti. Era al Campo Sinti, là, aspettare Salvini, insomma. Sì. Ma non ho capito. Allora, esprimo solidarietà, dice, esprimo, sono vicino a Salvini, un'aggressione intollerabile. Dica qualcosa. Io già avevo scritto a Salvini 4 giorni prima, chiedendogli un incontro per prevenire manifestazioni di odio e di razzismo. Vabbè, ma io voglio capire, secondo lei la Lega è un partito razzista che va cacciato dalla competizione? La Lega è un partito che da 20 anni, 15 anni rappresenta la sospensione dello Stato di diritto in Italia. Perché addirittura? E lei voleva incontrare Salvini? Dice così e voleva incontrare Salvini? Glielo spiego, l'articolo 1, comma della legge 205 del 93 vieta la propaganda razzista. Ora, visto che Salvini solo 3 anni fa dichiarava che noi Rom e Sinti siamo peggio dei topi, mi dica lei... O Buonanno diceva che noi Rom e Sinti abbiamo nel nostro DNA essere ladri e bugiardi, mi dica lei se questo è razzismo oppure una libera espressione di pensiero. Vabbè, adesso poi andiamo a recuperare quelle frasi. Secondo lei la Lega e il capo della Lega sono fuori legge, andrebbero messi fuori legge? Sono fuori legge, io ho chiesto alla Repubblica di sospendere la Lega dalla campagna elettorale, non solo, ho chiesto pure da questa campagna elettorale di indagare il Presidente del Consiglio Matteo Renzi, perché pure. È lui che è responsabile della mente del razzismo anti-rom in Italia. Cioè Renzi la mente del razzismo? Vabbè, Giunisi, però adesso chiamo un'ambulanza veramente per lei. Questo ce la chiamo vero. Per lei, ma questo la chiamo per lei. Credo, come questo non credo, come direbbe. Lei è uno. Glielo spiego. È un attimo solo che c'è la pubblicità, poi torniamo con Marcello Giunisi che dice che Renzi è la mente della campagna anti-rom in Italia, amico mio. Su, dai. È una vergogna che Radio 24 faccia una cosa del genere. Forse una lavatina di capo a te ti farebbe bene. Ma che meraviglia, io sono pazzo di voi due. Se fossi nata donna non saprei da chi farmi corteggiare e chi avrei corteggiato. Beh, piano adesso, piano. Mi dico malgioglio. Cala. Dunque, aggiornamento, mi chiede il signor Iannone se possiamo chiamare adesso il signor Di Stefano. No, che è pronto. No, non chiamiamo nessuno. Così adesso. Chiudiamo subito. Chiamiamolo adesso al volo. Perché facciamo subito. Mi ha scritto adesso. Ma non è che noi rispondiamo a quello che vogliono questi di Casa Pound, amico mio. Capito, dei signori, secondo me è un movimento democratico, finché non viene messo fuori legge è un movimento democratico di persone che la pensano magari in modo diverso da come la penso io, l'ho detto più volte, questo è sicuro. Non è un problema, sono stati attaccati duramente da quel signore che da balzatore sul cofano. Gli diamo il diritto di replica? Vabbè, domani. Quando glielo diamo? Così no, ma diciamo... la cosa incredibile, vabbè, ho capito, adesso non è che dobbiamo metterci a fare la scaletta della Zanzara di domani, oggi che sono le 20:01, dai. Allora, caro Iannone, vabbè, tu fai quello che devi io fare. Io scrivo intanto. Caro Iannone, caro magari Iannone, semplicemente Iannone. Allora andiamo con noi Associazione Nazione Rom Marcello Giunisi, il quale sostiene che la Lega va messa fuori legge perché da tempo è fuori dalla Costituzione, perché fa propaganda razzista, antidemocratica, eccetera eccetera. E poi anche che Renzi sia dietro la campagna anti-Rom che c'è in Italia. Scusi Giunisi, cosa c'entra Renzi adesso con la questione Rom? Scusi. Bene, ve lo spiego subito. Intanto la questione degli autobus. No, però mi dica una cosa, scusi Giunisi, prima. Ma voi siete stati in qualche modo difesi in queste ore dai centri sociali, da questi gruppi antagonisti di Bologna. Vi sentite in qualche modo difesi da questi oppure con voi non c'entra una beneamata mazza? Io credo che i centri sociali abbiano difeso una loro idea. Cioè non c'entrano niente con voi? Ma cioè era meglio se non venivano poco, a rompere i coglioni. Poco. Era meglio se non andavano a rompere i coglioni a Salvini fuori da Bologna. No, io avrei gestito la situazione in una maniera chiaramente completamente diversa. Però pochi giorni prima una Sinti che era lì, italiana, peraltro, ha dato un piccolo schiaffetto. Teresa si chiama. Teresa, uno schiaffo alla sì, consigliera. Io gli ho baciato la mano a Teresa. Addirittura era da baciare. Sì, gli ho baciato la mano. Come mai le ha baciato la mano, signora Teresa? Perché è la mano che ha scaffeggiato il razzismo. Da un punto di vista simbolico è come il gesto che fa negli Stati Uniti negli anni 50 una famosa donna che si siede in un posto del bianco e dice: non mi alzo. Cioè lei dice un gesto quasi simbolico, che ha ricordato i momenti dell'apartheid. Mississippi, esatto, Burn. Assolutamente sì, tant'è che sull'apartheid. Vabbè, ma quella è una consigliera della Lega che è andata a visitare un campo rom a vedere se sì, c'è una. Però quello che dicevo io è che sulla questione per esempio dell'apartheid, chi è che vuole gli autobus separati? Chi l'ha proposto per prima? La Lega o il Partito Democratico? Il Partito Democratico sì. A Torino il 23 ottobre. Ma che c'entra Renzi con questo? Scusa. Lo spiego. Innanzitutto Renzi è il segretario del Partito Democratico. Vabbè, capito, non è che è responsabile Renzi di quelli che fanno 4 anni a Firenze ha letteralmente perseguitato la comunità rom. Perché non sa quanti campi ha sgombrato e fatto bene. Nel momento in cui Renzi, se mi fa parlare un secondo glielo spiego, nel momento in cui Renzi assume la presidenza del Consiglio dei Ministri il 17 febbraio, il primo atto che viene fatto a Firenze è un'ordinanza anti rom per impedire ai rom di entrare nella stazione. Io stamattina ero alla stazione, c'erano dei venditori senegalesi che vendevano gli ombrelli dentro la stazione, la polizia, gli addetti della ferrovia accanto a loro non dicevano niente. Come sono entrati due donne rom, tre poliziotti addosso, ho mandato anche la foto. Beh, ma te credo, tre poliziotti addosso a dirgli te non puoi entrare. Scusi, ma perché? Scusi amico mio, amico Marcello Giunisi, a Firenze, a Roma e in altre stazioni spesso c'è un assalto, si è verificato un assalto. Vabbè, ma lasciamo perdere il caso singolo. Spesso aspetta un attimo. Giunisi, c'è stato un assalto da parte di zingari rom a gente che arrivava, sì, a quelli che fanno il biglietto lì. Portavamo le valigie a 5 euro come ora fa la e se, se qualcuno diceva di no, sputavate, no, spinte. Non è vero, come no? È successo. Testimonianze varie. Io ho testimonianze di donne rom che sono state malmenate in questura. Malmenate gli hanno preso i soldi di tasca, sono andati in questura a denunciare. Cioè lei sta dicendo che i poliziotti hanno preso i soldi dalle tasche dei rom? È successo a Firenze. Ma perché non ha denunciato i poliziotti allora? Allora sono stati denunciati dalle stesse donne alla stessa questura. Ma Giunisi, non ci posso credere. Mando la denuncia, se no, non ma va bene, ma sì, la denuncia, lei fa denuncia dappertutto, tanto denuncia contro re. No, non l'ho fatta io, l'hanno fatta le donne rom. Vabbè, comunque lei non può negare che nelle stazioni italiane nei mesi scorsi e forse anche adesso ci sia stato un assalto. Senta, posso dire una cosa su Renzi che non sapete? Allora, se ha sgomberato dei campi rom, ha fatto benissimo. Sì, questi campi rom. Quando Renzi è partito per il Sudafrica a consegnare il fiorino d'oro a Nelson Mandela. Che c'entra? Ecco, la notte prima ha mandato la polizia, sì, la polizia municipale in Santissima Annunziata a sgombrare le persone e ha dichiarato che con i rom non va, ci vuole, bisogna fare la pulizia dei rom. La pulizia dei rom. La parola etnica. Dopodiché è partito per andare in Sudafrica a consegnare d'oro a Nelson Mandela, che non ha mai consegnato ufficialmente. Cioè, secondo lei sui rom, è come la Lega? Abbiamo scritto a Nelson Mandela, gli abbiamo detto. Ma chi se ne Nelson frega Mandela adesso di Nelson Mandela? Dai. Rifiuta il fiorino da una persona. Ma Nelson Mandela adesso non vi può ascoltare. Nelson Mandela ci ha risposto, abbiamo la mail. Vabbè, Giunici, dicendo lo staff di Mandela ufficialmente non ha mai ricevuto il fiorino d'oro. Ma Renzo, chiami tu o no? Allora, come? Io no, volevo dire sì, sto per chiamarla. Volevo dirle questo: io sono sono contro il razzismo. La testimonia sempre, il Cruciani tanto si arrabbia con me. Credo che lei l'altra volta avesse fatto più bella figura perché aveva proposto, a mio avviso, una cosa straordinaria che era quella di fare le cooperative. Perché è lei, esatto, giustamente, le cooperative, questa era una cosa secondo me intelligente da fare per l'integrazione. Le cooperative, esatto, dei lavoratori rom, questa per mi era piaciuta. Ma quale dopodiché, cooperativa? Prima rubano e fanno casino e poi li metti in regola per le cooperative, gli dai, se li metti in regola e gli dai un distintivo di riconoscimento, gli dai un ruolo e gli dai soprattutto la possibilità di guadagnarsi due eurini. Questo era il senso, secondo me, intelligente della proposta di Giunisi. Dopodiché, esatto, stasera ha detto altre cose che io non condivido nella maniera più assoluta, perché dire che Renzi ha perseguitato, dire che quello non lo condivido per nulla. Cioè, se lei si pone il problema di come integrare i rom, vabbè. Questa è una questione importante, non altro. Guardi che la cooperativa a Firenze è nata, noi l'abbiamo proposta al governo all'inizio di giugno e a metà luglio. Lei non può negare, Giunisi, ma che lo chiamasse Iannone, non rompesse coglioni. Si vede davanti alla legge, le ferrovie italiane hanno firmato un accordo con Poste Italiane Key Point e è nata la cooperativa. Peccato che noi andiamo da questa cooperativa con il curriculum in mano e veniamo cacciati. Giunisi, io voglio capire una cosa: è vero o no che nei campi rom esiste un tasso di illegalità molto alto? i campi rom sono illegali. No, la, ma un tasso di campi rom è illegale. Ma lei, voi lo sapete che un cittadino rom fino a poco tempo fa per uscire da un campo doveva fare il ricorso al TAR. Vabbè, ma uno può, se vuole, c'ha un lavoro regolare, può affittare la casa dove vuole. No, se uno ha un lavoro non regolare, non dica stupidaggine. Se uno è italiano, se uno è italiano, fondatori, mi faccio dire una cosa: Samir Ali a Roma, che è uno dei fondatori di Nazione Roma, ha 30 anni, sposato, 4 figlie, ha un diploma all'Unione Europea, lavora per il Ministero degli Interni, vive nel campo rom di Salone. Ma perché vive perché nel campo rom? Il comune gli ha imposto di vivere lì. Ma che il comune? Ma se uno, quando vuole cercare, se uno ha un lavoro normale, va a cercare una casa, lavora, la casa la trova. Lavora per il Ministero degli Interni. La casa la trova, non si preoccupi, che la casa la trova, non si preoccupi. No, vi do il suo numero di telefono, lo chiamate. Quando lui va a cercare una casa al comune di Roma, mi ha affittato una casa, mi fai vedere il tuo documento d'identità, gli dai il documento d'identità, ah, ma te vivi a Salone. No, io la casa a te non te l'affitto, perché in Italia l'85% c'è il pregiudizio, autoctoni è razzista verso rom e sinti. C'è il pregiudizio, questo è il problema. Sì. Su questo Zuinisi ha ragione, cioè, ma molti di loro devono, scusami, anche per trovare un posto di lavoro, sono costretti. Posto che lo vogliono trovare, No, no, guarda, io anche nel campo dove sono andato a Bologna... Ma basta, costa dirlo. No, su questo ha ragione, su questo ha ragione. Ma non è vero, ha prima smentito di una follia, volte su questo ha ragione. Di no, lascia, sinti, stare, lascia stare quella cosa. È vero, li ho incontrati chi anch'io. Che nei metalli, alcuni scusi. Rom io che lavorano in metalli a Brescia. Ma che c'entra che lavora nei metalli? Ma come che c'entra? È la tradizione dei Rom lavorare i metalli. La famiglia di Andrea Pirlo. Lei ha detto che Andrea Pirlo è una famiglia sinti, che Vendola e sinti gliel'ha detto a lei durante una manifestazione. Chiamate Nichi Vendola. Poi ha detto pure madre Teresa di Calcutta. Mo sono tutti diventati Rom. Dai, sono tutti Rom. Dai, su. Ma che ci sia un tasso di criminalità all'interno della comunità Rom o sinti in Italia? Ma ha detto un'altra cosa. Quindi si è accertato. I dati UNAR hanno detto che la percentuale di criminalità presente all'interno fra gli immigrati, cioè, c'è uno sfruttamento di bambini, c'è uno sfruttamento nei bambini, uno sfruttamento dei bambini pazzesco. Zuinisi, su, accattonaggio che in Italia ci sono i bambini che vengono sfruttati dalla camorra, dalla mafia, dalla anche. Io sto lavorando per proteggere i bambini e le loro famiglie. Vabbè, questo che c'entra? Questo non toglie che vengono sfruttati anche... Nel senso che non dobbiamo fare demagogia. Vabbè. Ci sono delle figure come Zuinisi che sono utili dalla Juventus ufficialmente, sì. Non posso dire chi, mi dicono che questa storia di Pirlo, che è originario rom sinti, è una palla pazzesca, addirittura che deve nascondere, come dice lei, di essere deve rom, nascondere le proprie origini, ma è una puttanata. Zuinisi, dai, ma chi deve nascondere le origini? Chi fa un lavoro regolare, chi fa un lavoro normale, guadagna, non ha problemi che sia rom, che sia sinti, cioè, non ha problemi. Lei pensa che ci sia un razzismo nei confronti dei rom? Sì, questo c'è, scusami, su questo ha ragione. Io li ho incontrati. 85%. Ma guarda, la signora Deusanio ha detto adesso, Deusanio ha detto che gli zingari gli fanno paura, e quando sale sull'autobus si mette la mano nel portafoglio, che era la reazione di molti italiani, Però ha ragione Zuinisi su questo. Al Papa non gli fanno paura, però. A chi? Al Papa Francesco. Beh, Papa Francesco ha detto: ma per favore basta con questa storia. Vabbè, certo, quello mica corre il rischio che i zingari gli fregano il portafoglio. No, lui guardi che Corrado Krajewski, il sole misoniere. Lei dice, dunque, Zuinisi, voglio capire da lei, secondo lei i rom e gli zingari, i rom, chiamiamoli così per generalizzare, so che poi non è la stessa cosa, hanno meno criminali degli italiani? I dati pubblicati da ma no, i dati, ma bisogna io. Vedere i numeri. Cioè, lei lo dica apertamente, cioè i rom e gli zingari commettono meno crimini degli italiani? I rom e i sinti in Italia sono 160.000. I rom e i sinti vivono in una situazione di illegalità costruita dallo Stato italiano. No, costruito perché vogliono vivere loro in quel modo. Non è che i rom e i sinti hanno scelto di vivere nei campi. Ce l'ha messo lo Stato italiano nei campi. Sono dei lager, capite? Dei lager, che sono il residuo del lager. Nazismo e del fascismo. Adesso, dei lager, campi di sterminio. È l'unico paese europeo, l'Italia, che ha dei campi istituiti dallo Stato. L'unico paese europeo, veramente. Ciao amico mio, a presto. Ciao Zuinisi, ciao. Volevo salutare affettuosamente Cruciani e il piccolo Parenzo. La Zanzara. Beh, amico mio, dall'Emilia Romagna oggi ci viene anche uno spunto per riaprire dopo qualche giorno una rubrica da me molto amata, nonché ideata, caro Parenzo. L'Italia, paese di merda. Lasciatemi cantare. Questa Italia è un'Italia di merda. Con la chitarra in mano. L'ho sempre detto che questo è un paese di merda. Lasciatemi cantare. È uno stato di merda che andrebbe processato. Sono un italiano. Questa è la merda d'Italia. Sono un italiano. C'è un'Italia di merda. Lasciatemi cantare. Ma in realtà è una cosa a metà tra l'indignazione e la risata, caro Parenzo, perché c'è la procura che ha chiuso l'indagine sui rimborsi in Emilia-Romagna, no? I rimborsi dei consiglieri regionali uscenti. Sì. Ci sono personaggi di tutti i partiti, il Partito Democratico dovrà rispondere di 900.000 euro, anche l'Italia dei Valori, anche il centrodestra, eccetera, eccetera, eccetera. Però la cosa più curiosa è che c'è qualcuno, anzi qualcuna, una persona, una donna, che si è fatta rimborsare, sembra che si sia fatta rimborsare, un sex toy. Questo immaginavo ti piacesse. Amico mio, cioè, tu ti rendi conto che c'è qualcuno che è andato in un sexy shop, qualcuna, una donna è andata in un sexy shop, si è comprata, che ne so, un vibratore, un dildo, delle palline, qualche cosa, cioè qualche cosa di erotico, o altre cose, non so, magari un film, comunque sembra un sex toy, e poi ha messo lo scontrino come rimborso. Siccome c'è anche qualcuno che si è fatto rimborsare un bagno pubblico, un euro, allora chissà che non sia la stessa persona. Che cosa ha fatto questa qua? Questa donna, questa questo signora? Non sappiamo. Questo però. Non sappiamo. Però magari ha fatto tutte e due le cose insieme. Cioè, vai al sexy shop, ti compri un vibratore, poi scappi al cesso pubblico a usarlo e le due ricevute te le fai rimborsare. Devo dire che se ha fatto così, questa qua è un genio. Cioè, è andata al sexy shop, si è preso un vibratore, è corsa nel bagno pubblico, ha pagato un euro del bagno pubblico, ha usato il vibratore e poi con i due scontrini in mano, quello del sexy shop e quello del bagno pubblico, l'ha messi nel calderone dei rimborsi regionali. Questa un è una genio. Tua ricostruzione. È una diciamo, mia ricostruzione, sì. Liberamente ispirata, ecco, dalle sì. Notizie di merda sull'Emilia Romagna. C'è un'Italia di merda. Va bene. Claudio Pordenone, Claudio? Sì, vai. Ma mi riallaccio a una delle tantissime ciocchette che dice Parenza, che l'ha detta prima. Quando lui punta sempre demagogicamente parlando dei sì, però alzi la voce e soprattutto si metta alzi la voce, più di gridare non saprei cosa fare. No, ma si metta in una condizione. Sono in una condizione eccellente. Ottimo, adesso la sentiamo. Allora, diceva prima che puntualizzava il fatto che i sinti, i zingari, o chiamiamoli di Bologna, sono italiani. No, i sinti di quel campo, campo. Sì, ma a me non me ne frega niente se sono italiani. Esatto, no, lui continua a insistere, ma gli italiani sì. Non sono tutti uguali, gli italiani non hanno tutti gli stessi diritti, no, perché ci sono quelli onesti e quelli disonesti, certo. Quelli bravi e quelli meno bravi, delinquenti, politici, giornalisti, ci sono tutta una serie di cose differenti, allora non basta essere italiano per essere rispettato, anzi, talvolta essere italiano e comportarsi come fanno i sinti è un argomento per non essere rispettati, per essere meno rispettati degli altri. Claudio. Io rispetto di più un qualunque altra persona che si comporti però bene con me. Ma se uno è un delinquente, Claudio da Pordenone, io ho detto che se uno è un delinquente, quindi il delinquente va in galera. Ma se vuoi i mediatori culturali, tu no, vuoi, ho detto su. Che il lavoro che ha fatto Zininini, come si chiama il signor Zuinini, adesso non mi ricordo, le chiedo scusa. Quello di dare una creare una sorta di cooperativa. E come mai non ci riesce? Perché non gliel'hanno fatto fare, chieditelo come mai. A parte che tu per creare una cooperativa di lavoro per il facchinaggio devi fare dei percorsi, non è che uno si inventa facchino così da un momento all'altro. Nessun rom lo vuole fare, dai, su, non diciamo stronzate. Te lo immagini tu un rom di un campo rom che va a fare il facchino a portare i bagagli alla stazione? Ma quello è il massimo, ci vanno a fare altre cose alla stazione, dai. Non mi faccio querelare da Zuinisi. Massimiliano da Milano, dai, su, ma non è che creano la cooperativa, non gliene frega un cazzo di creare la cooperativa, dai. Ma che gliene frega, Massimiliano da Milano, dai, su. Pronto. Non scherziamo. Buonasera. Sì, dimmi, Massimiliano. Ma io volevo dire invece che ero perfettamente d'accordo con l'iniziativa dei 5 Stelle sul patto del Nazareno. Sì, cioè portare in procura. Adesso lei invece io la porto in ospedale insieme a quello dei 5 Stelle. Perché se lei pensa che gli accordi politici, per quanto criticabili, possano essere portati in tribunale, lei è da ricovero no, in ospedale. Posso. No, argomenti, allora, prego, per carità. Argomento. Allora, siamo in un paese dove un senatore della Repubblica ha ammesso di essere stato, ha confessato di essere stato comprato a suon di un sacco di soldi per far cadere un governo. Sì, quello c'è un processo in corso, però quello è una roba normale. Lì c'è la compravendita, ci sono dei reati che sono, come dire, circoscrivibili, no? Cioè, ci sono nel codice penale dei reati. Più o meno circoscrivibili. Adesso qua parliamo di un accordo di cui tutti parlano, compreso quelli che l'hanno fatto. Sì, ma ho capito, ma è un accordo politico. Ma è un accordo politico? Ma perché la magistratura dovrebbe indagare su un accordo politico? Scusi. Mi perdoni, ma chi lo dice che è un accordo politico? Nel senso che, mi spiego, nel momento in cui ci fosse, ad esempio, dentro l'accordo che non si tocca la legge sull'editoria, non si toccano le aziende di Berlusconi, ad esempio, questo dal mio punto di vista dà una luce diversa. Supponiamo che l'accordo cambi e che o salti e che vengano toccate le aziende di Berlusconi, potrebbe persino essere ricatto nei confronti di Berlusconi. Supponiamo che ci siano dei soldi in ballo. Noi non lo sappiamo. Va bene, guardi, Massimiliano, mi sta quasi per convincere di una cosa: che ovviamente tutti gli accordi politici possono nascondere anche qualche altra trama, su questo non c'è dubbio. Però questo avviene di solito dopo, quando già si è scoperto qualcosa. In quel caso, nel caso della compravendita dei senatori, c'è stato un signore che si chiama De Gregorio che ha confessato. Poi la cosa, ovviamente, ha detto di essere stato, come dire, comprato da Berlusconi a suon di denari, 3 milioni di euro. Sulla base di questa roba qui, sulla base di questo, si è aperto un processo che adesso ha un suo sviluppo. Punto e basta. Cioè, di questo si sta parlando, di un accordo politico ben preciso, ha capito? Cioè, di una cosa ben in quel caso c'è il patto del Nazareno, qualcosa che, di cui si parla da tempo, che c'è ovviamente, e poi quello che c'è dietro, poi vedremo. Ma come, cosa dovrebbe indagare un giudice, secondo lei? Potrebbe indagare del fatto che sia solo un accordo politico. Beh, qua c'è una persona fra poco. Non avendolo letto nessuno, non lo sa nessuno. Poi allora, Massimiliano, abbiamo ospite una persona fra pochissimo che ci potrà dire dall'alto del suo, perché ci vogliamo un po' estraniare adesso da questo dibattito politico, per incontrare un personaggio straordinario che è nella nostra storia. Un mettiamogli personaggio la musica che è nella nostra infanzia. Non c'è nessuna musica, voglio mettere la solita musica rock perché ci dà la carica. Che ci potrà dire qual è il thriller, secondo lui, il thriller del Nazareno? Allora, sto leggendo avidamente in questi giorni, Parenzo, mi capita raramente di leggere... Ma lo leggo anche per un motivo che dopo ti dirò, Dopo ti dirò. Abbiamo in comune una cosa, una piccolissima cosa, anche se importante. Sto leggendo un libro che si chiama Paura. Bravo, Paura. L'ho chiesto anch'io. No, anche tu non dire cazzate. Sì, l'ho chiesto. Ah, l'hai chiesto, devi ancora iniziarlo, diciamo. Sì, anche ho detto anch'io, ho chiesto all'ufficio stampa di mandarmelo qui alla radio. Dopo aver letto la biografia recente, una delle recenti biografie di Hitler e di Mussolini, perché sono appassionato di biografie, biografie. Sì, ne ho letta anche una, ovviamente scritte dai post. Anche non quella di Churchill magari avrai letto, spero. No, sai che ho comprato recentemente? Ho comprato un'altra biografia, adesso non mi sono scordato. Proprio di Razzi. Proprio ieri. No, che Razzi, mica ha fatto una biografia, Razzi, un altro, non mi ricordo. Dalla biografia di uno, una roba che mi appassiona, beh, adesso me lo ricorderò. Purtroppo l'atteroscherosi è galoppante. Stalin. No, uno più recente. Ma abbiamo con noi Dario Argento, buonasera. Buonasera. Come andiamo? Bene, abbastanza bene. Allora, la cosa che abbiamo scritto, maestro Argento, che ha scritto Paura per Einaudi, e che la sua biografia, già è stato intervistato a destra e a manca, come si dice, caro Argento. Abbiamo in comune il tifo per una squadra che si chiama Lazio. Nessuno lo sa, pochi lo sanno, perché non è che lui si mostra dicendo che sono laziale, giusto Argento? Non è che lei lo dice così ai 4:20, o sbaglio? Ma insomma, lo dico abbastanza, sono tifoso della Lazio con orgoglio. Senza nasconderlo, certo, senza nasconderlo. Ma senta, iniziamo dal calcio, ma se la Roma dovesse vincere lo scudetto, lei sarebbe scontento? Ma io sono romano, quindi in realtà poi se vince la Roma sulla Juventus, in realtà sono meno scontento. Cioè addirittura non sprizza di gioia, però tra la Roma e la Juventus preferisce che vinca lo scudetto la Roma. Ma lo sa che succede a Roma se vince lo scudetto la Roma? Per un laziale è un disastro assoluto. Vabbè, si supporta per un periodo, però ogni modo io sono romano, poi sono laziale, poi sono... Però preferisce tra Roma e Juve, preferisca che vinca lo scudetto la Roma. Sì, certamente. Senta, ma a Roma l'amministrazione Marino è un film horror, secondo lei? Ma come dicono molti, errori, fanno un sacco di errori, un sacco di casini, forse poca esperienza le persone che governano. Sì, poca esperienza di amministrazione di comuni. Quindi fanno un sacco di casini. Ma si può definire un film horror l'amministrazione, secondo lei? Oppure è proprio un film horror, no, però ogni modo un bel casino. Un bel casino, ma cioè ci fosse domani un altro sindaco, lei si sentirebbe meglio o no? Oppure... Vabbè, tanto questo qui, tanto finirà, e quando finisce poi vedremo un nuovo sindaco. Cioè ti aspettiamo che finisce. Senza cacciarlo via già adesso. Ma fa parte della tua crescita, Parenzo, Profondo Rosso fa parte della tua crescita. Ma tu scherzi? Perché diciamo, quest'anno sono anche credo 40 anni di Profondo Rosso, se non sbaglio, no, maestro Argento? Sì, ma lei si è mai non è come quelli che si vogliono liberare di una presenza troppo ingombrante? Cioè spesso gli artisti, quelli troppo legati ad uno, poi lei ha fatto tanti altri film eccetera eccetera, però inevitabilmente lei è legato a questo titolo, no? Cioè non c'è dubbio. No, il più bello è l'uccello dalle piume che tu non hai visto. La mia filmografia, ecco, ma ha voluto qualche volta ammazzare Suspiria, Fenomena, certo. Ecco, ma lei ogni tanto lo rivede Profondo Rosso? No, francamente io non rivedo mai i miei film. Cioè non l'ha mai più rivisto? Beh, l'ho visto dei pezzi così, ma non vedo il film per intero, non lo vedo, non ho a casa neanche i DVD dei miei film, non, per me sono esperienze superate, finite, passate, sono proiettato verso cose future. Per cui Profondo Rosso intero non l'ha mai, da quando l'ha fatto non l'ha mai più rivisto. Ma non mi ricordo di averlo più rivisto. Forse lo devo vedere adesso perché al Festival di Torino ha fatto una serata speciale per però speriamo di no. Speriamo di no. Chissà che effetto le fa rivedere dopo 40 anni un film. Penso che i pezzi che ho visto mi soddisfavano, devo dire. Ma sai che uno dei più belli per me è L'uccello dalle piume di cristallo, sì, che sono riuscito a ritrovare in una cineteca qui a Roma. Bellissimo quello. Scusi, però quando uno dice è una cosa che le dà un po' fastidio oppure la soddisfa nel suo ego, come ognuno di noi ha, di noi ha il fatto che questa cosa qua sembra un thriller con un finale, lo si dice di tante cose anche nel calcio, un thriller come un film di Dario Argento, cioè è una cosa che la infastidisce oppure le fa piacere? Ma il Profondo Rosso è diventato una specie di frase d'obbligo, che quando si dice che le finanze sono in Profondo Rosso, c'è un continuo ripetere questa frase ispirata al film. Quindi, non le dà... Ormai ce l'ho nel sangue questo film, un film che mi ha dato anche molte soddisfazioni. Ma lei l'ha fatta diventare ricco Profondo Rosso o c'è qualcosa? No, non mi ha fatto diventare ricco. Ha guadagnato poco con Profondo Rosso? Beh, non ho guadagnato molto perché all'epoca c'erano comandavano i finanziatori, si prendevano tutto e si lasciavano le briciole. Con Profondo Rosso alla fine ha guadagnato. È andato in rosso lei, no? Il rosso, è andato in Profondo Rosso. No, non lei, sono andato in rosso perché ho guadagnato il mio salario, però. Oltre il mio salario non ho preso nient'altro. Ma lei è un uomo. Voglio capire questo. Aspetta. Però d'Argento. No, cosa c'è in testa? No, abbiamo perché la bellissimo, pubblicità. Perché i demoni nella testa di Argento sono straordinari, secondo me. Quei demoni incredibili. Come demoni? Che vuol dire demoni? I demoni, le paure, le angosce, come lui le ha trasformate. Ha parlato del suicidio, anche avuto. Sì. Ho letto che Adesso ne parliamo un attimo, c'è l'interruzione. Peccato, le interruzioni. Interruzioni, amico mio, le interruzioni sono un dramma. Spettacolare. Spettacolare. La Zanzara. Tra GR, borsa e pubblicità qui non si parla mai, questa trasmissione è massacrata. Allora ragazzi, dobbiamo dire una cosa riguardo l'intervista che abbiamo fatto prima a Loris Narda, che è quel signore che è salito sopra la macchina di Salvini. Allora, cosa è successo? Ripeto per l'ennesima volta, questo signore, perché non so se avremo tempo di farlo oggi, questo signore ha pronunciato delle parole nei confronti di Casa Pound, oltre che di Salvini, eccetera, eccetera. Sì. Le parole sono queste qua, le facciamo ascoltare adesso. Secondo questo signore, Salvini e i suoi sgherri. Vabbè, sentiamole, dai, sentiamo. C'è una campagna d'odio propagata tutti i giorni dai luogotenenti di Salvini qui a Bologna, così come in tutto il resto d'Italia, che di giorno fanno delle dichiarazioni incendiarie, di notte ci sono i loro sgherri di Casa Pound che vanno a dar fuoco a campi rom, accoltellano. Allora, è evidente che quando uno dice gli sgherri di Casa Pound che danno fuoco ai campi rom, che accoltellano, poi deve provare che quelli danno fuoco ai campi rom. Non c'è dubbio. Non c'è dubbio. Noi non c'entriamo niente, è stato il signor Narda. Ora non so se avremo il tempo oggi, probabilmente no. Però, insomma, domani, se questi signori di Casa Pound vogliono venire qui a dirci la loro, sono i benvenuti. C'era come disponibile, tutti in c'era questo... disponibile il signor Simone Di Stefano. Benissimo, oppure Iannone domani, perché oggi non abbiamo il tempo, altrimenti dobbiamo stare 2 minuti e non ci va di stare 2 minuti. Prima informazione di servizio, seconda informazione di servizio, si è riaperta di nuovo, su questo anche Dario Argento ci potrà dire la sua, si è riaperto di nuovo la corsa al Quirinale dopo poco appassionante, per me è poi dopo, no, per adesso poco appassionante, dopo sì, diventerà appassionante, no. Come tutte le cose, no, in cui c'è una gara, in cui c'è comunque un giallo, un thriller dietro, le trame intorno al Quirinale, si è riaperta la corsa al Quirinale perché pare, sembra, anche se lui smentisce ufficialmente, che a dicembre Napolitano molli. No, beh, molli. Non ha smentito, eh. Beh sì, ha smentito, non è che ha detto che mi si dimette a dicembre, ha detto le cose sono note da tempo, eccetera, eccetera. Però c'è una persona che non ha mancato di dire la sua, io lo so, non lo sopporto, però ancora una volta è entrata in campo a dire la sua, la signora Boldrini, che ha detto che ci vorrebbe una donna, amico mio, ci vorrebbe una donna al Quirinale. Ma io dico, cosa c'entra, cosa diavolo c'entra? Ci vorrebbe semplicemente un Presidente della Repubblica eletto dal Parlamento, diciamo, che sia una persona, certo, diciamo, più specchiata possibile, in teoria, no? Lo elegge il Parlamento. No, secondo lei c'è il momento di una... A me queste cose mi fanno impazzire. È il momento di una donna. Ma chi l'ha detto che è il momento di una donna? Perché dovrebbe essere il momento di una donna? Per quale motivo al mondo? Il paese, secondo lei, è pronto per un Presidente della Repubblica donna? Ma io penso che da tempo. Il paese in molte occasioni è più avanti della politica. Nel nostro paese ci sono tante donne autorevoli che hanno delle storie veramente significative e dunque è giusto che anche queste donne possano essere considerate. Allora, siamo con Dario Argento, grande regista, maestro di, insomma, che ci ha fatto compagnia nella nostra crescita. Compagnia e paura anche. Beh, paura, sai che io ho visto quel film, Profondo Rosso e altri film, sì, una paura per strana però. Ti svelo questo, era l'occasione. Dimmi. Per abbracciare le ragazze lì, quando perché c'erano c'entra, quelle ragazze? Scene. Perché se c'erano quelle scene lì, dicevo, vieni a casa mia a vedere un film, no? Allora si metteva il film e poi chiudeva, abbassavo le luci della sala. Là, no? E poi dice, ma no, ma fa paura, e si abbracciava. Dai, su. Quindi io ringrazio Argento perché invece sono dei ricordi meravigliosi con i suoi film, capito? Ma, dai, ma che c'entra, cioè, le ragazze? Adesso sei veramente uno va, cioè, si bacia con le ragazze, le invitavo, con altri film, mica con Profondo 13, Rosso. 14 anni, però si creava quel clima Suspiria, quel clima di Suspiria che era intimo, sei, bello. Ti sei completamente pazzo. Vabbè, volevo chiedere a Dario Argento se secondo lui il Quirinale assomiglia un po' ad un thriller, ad un giallo, la corsa al Quirinale o no? Pronto? Ma sì, pronto, sì. Eccoci. Ma proprio un thriller. Un po' sì, dai. Che è successo? Ma più che un thriller, insomma, l'ha detto però che il presidente Napolitano che si è dimesso quando sì, per cui avete sentito, sì, che non... il peso degli anni, il peso degli... i suoi anni. Quindi, senta, lei che è stato un supporter di Renzi a un certo punto, ha detto che gli piaceva Renzi, sì. Ma è rimasto un po' deluso da Renzi o no? Ancora bisogna vederlo in azione, insomma, è poco tempo che sta al governo, adesso vediamo cosa farà, cosa riuscirà a fare per la nostra nazione. Ma chi le piacerebbe al Quirinale? Ragazzi, ma che tossite tutti, siete impazziti? Cioè, io ho la tosse. Ma ho capito. Anche il signor maestro Argento, la tosse, vuoi fare? Uccidici, che vuoi fare? No, no, per carità. Cioè, però. No, è inverno, abbiamo la tosse, ma cosa vuoi? Ma guarda che sei pazzesco, sei. Ma proprio. No, ma ho capito. Inumano, ma no, ma che c'entri l'umano? Che è una cosa pazzesca. Cioè, no, volevo chiedere una cosa su. In un suo film prenderebbe più Lotito o Totti? Per ruoli diversi. Per ruoli diversi, tipo a Totti, farebbe fare un ruolo a Totti o no? Ma non mi sembra, cioè io non faccio film. Razzi magari, Razzi. Qui. Razzi è quindi fantastico come personaggio. Sì. Razzi, lo conosce Razzi? Senatore a tutti. Beh, è uno dei pochi in Italia che non conosce Razzi. Il senatore Antonio, il senatore Razzi, Antonio Razzi. Imitato da Crozza. Quello imitato da. Sì, sì, sì. Non è un personaggio eccezionale. Il maggiordomo gli può far fare. Ma come il maggiordomo? C'entra maggiordomo, dai. Massimo quello, dai. Ma no, e Lotito? Vabbè, Lotito è un po' pagliaccesco, quindi vediamo. Ci vorrebbe una commedia all'italiana per tutte e due, veramente. Una commedia all'italiana, sia per Lotito che per Razzi. Lei non c'entra niente in questi, in questi. Un personaggio politico perfetto per un suo film, invece, chi è? Un personaggio politico che. Come faccia o come, come faccia, sì, come faccia, come faccia, Fassino, Fassino è vero. Invece Fassino, come una persona un po' ambigua e con quella vocetta motion, è Fassina. Ah, Fassina, Stefano Fassina. Con la, con, sì, la vo- con la persona un po' con la sua vocina un po' ambigua. E poi anche con quel suo viso un po' ambiguo. Capito, Parenzo? Ambiguo, no, ma stavamo parlando di una cosa interessante prima. I tu demoni. Hai detto. No, tu hai detto della cosa, però l'ha già detto in mille interviste questa cosa del suicidio. No, ma interessante dirlo da lui, no? I demoni che lui ha dentro, cioè come nascono, sì, paure, un po' sti film, i tormenti. E beh, bellissimo però sentirlo un po' da lui. Una paura nella sua vita, qual è Dario Argento? Ma sono le paure di tutti. Io poi ho delle paure un po' più profonde che vengono dal mio subconscio, dai miei sogni. Dormire accanto a una donna, lei ha detto a un certo punto, perché dormire accanto a una donna le mette un po' di angoscia? Perché non si sa mai cosa passa nella testa della gente, quando tu dormi sei praticamente come morto, la persona che ti è accanto può pure alzarsi e andare in cucina per un bel coltellaccio in altro. Quindi... Vabbè, questo però mi scusi. Però questo è gioco, io Parenzo dovrei stare in campana praticamente. Tu secondo me dovresti seguire il consiglio del maestro, perché cioè quello di tu di... sei tra quelli che rischiano un po', cioè perché tu dici vado a letto con sconosciute, Parenzo, tu dici. No, questo dici tu, rischi che ti taglino, che mi tagliano la gola di notte, dici. Non la gola, però scusi, com'è? Non la gola. È una paura questa qua, questo non credo. Abbastanza tu dici un'altra cosa, mi taglia. Non la gola. È una paura abbastanza incredibile questa qua, cioè lei dice ho paura di dormire con una donna perché non so quello che può succedere di notte. No, poi dopo quando la conosco bene so chi è, come si comporta, certo. Va bene, questo qui non, ma perché è che dovrebbero ucciderla, no, scusi, però, questo è il punto, la, però, appena scusi, conosciuta una persona non ci dorme la notte, non ci dorme la notte, ma veramente sì. E dorme con la luce accesa magari. No, non ci dorme proprio perché c'è proprio questa paura che una sconosciuta possa prendere un coltellaccio e zac. Vabbè, oh, ma guarda che cioè io una volta ho dovuto fare una scenata, Parenzo, una si era attaccata ad una colonna di casa mia, ma anni fa questa roba qua, non se ne voleva andare, si era attaccata ad una colonna dentro casa mia, attaccata a piene mani con una colonna, non se ne voleva andare. Io ho detto tu perché vai via. Voleva andare? No, voleva andare via, perché volevo... la dovevi, aveva fatto no, le pulizie a casa, ma non la volevi volevo pagare, via, volevo, no, volevo che andasse via da casa come era negli accordi, ma che era la tua domestica, ma che non domestica? La pagavi, la in catena qua. No. Va bene, no, ma voglio capire, è vero che ho letto, maestro Argento, che lei ha anche paura di attraversare le piazze vuote? Alcune ho delle fobie che sono, sì, le piazze grandi, quelle molto di vuote, sì, una specie di agorafobia c'ho, cioè, forse. Vabbè, ma sai, ma non è che uno che fa i film di quel tipo non abbia paure. Lei si è mai impaurito facendo un suo film? No, impaurito no, perché li faccio io, li appunto, penso io. E che ne so, magari si impaurisce, no, da solo. Anzi, hanno un effetto catartico forse quello, no? Di. Sì, in ogni modo a me non fanno paura perché. E la Lega le fa paura, la Lega? Salvini le fa paura come personaggio? Abbastanza inquietante come personaggio. Sì, è inquietante, sì, per quello che dice la Lega. Quando cioè parla, quando. Sì. quegli scatti di ira, quelle cose, fa un po' impressione. Fa un po' impressione, le mette paura, Salvini. Sarebbe un personaggio, magari anche lui, da mettere nel casting, con Fassino e Fassina, no? Vabbè, non mettiamo troppe politiche, mettiamo attori che meglio, che sono duttili e sanno più. Almeno sanno recitare. Va bene, grazie, a presto. Arrivederci, ciao, a presto. Saluti, maestro. Arrivederci. Giorgio da Genova. Buonasera. Vai Giorgio, dimmi. Buonasera, io sono per lo sterminio completo degli rom e degli zingari. Bene. Far del mangime per i maiali, è l'unica soluzione per io che cosa? Io spero che questo stia scherzando, questo pazzo. No, non sto scherzando, Parenzo. E allora lei è un matto. E lei? È un potenziale violento e un matto. Lo sterminio completo, donne, lei uomini, è pazzo. Lei deve dare le sue generalità alla. Anzi, ma perché noi vuole dare perché vuole le generalità sue alla perché, polizia? Perché vuole sterminare i rom? Scusi. Un attimo solo, fermo Giorgio. Vediamo se trovo oggi, se trovo una persona, proprio in conclusione di trasmissione. Oh, presidente Ferrero, buonasera. Presidente. Buonasera, chi è lei? Radio 24, la Zanzara. E io che ci posso fare? No, però scusi, presidente, un attimo solo. Mi scusi, lei oggi è stato deferito per razzismo. È successo che, anche che questo in Italia. È successo? È stato deferito per razzismo per la frase sul filippino rivolta a Toir. E che vuol dire deferito? Ma deferito, cioè, nel senso che dovrà rispondere. Deferito di fronte alla giustizia sportiva per questa cosa del razzismo. Allora? Beh, potrebbe essere squalificato, presidente. Ma no, che ho fatto di male? Vabbè, ma se uno scambia uno del Guatemala con uno dell'Honduras, mica gli rompete i coglioni. No. Che cazzo ne so, quando sta Giacarta? No. Io i miei film li faccio Cinecittà, no, capito? No, bene, presidente, ho capito, però lei è stato anche un po' irriguardoso, diciamo la verità. Se un italiano a Giacarta gli dicono che te sapona piuttosto che te Agrigento, che fa? Gli pia la lingua e ci fa un cacciavo in gomma. No, beh, d'accordo, presidente, d'accordo. Quinzi, caccia via sto sciociaro. Ma che c'entra sta Salvini? Vabbè, adesso che c'entro io, scusi. Vabbè, era giusto così per dar un prurito. Vabbè, presidente, allora, lei che dice? Ha paura di questo deferimento? Ma no, che paura, mo gli damo pure tu pizzicotti sulle orecchie a sto filippino, no? Vabbè, insiste, vabbè, presidente, arrivederci, mi sembra che non è... Arrivederci, chi è lei? Sono Cruciani. Si dimentica tutto va subito. Va bene. Va bene, ragazzi, dopo Ferrero, che mi sembra non abbia paura di questo deferimento ridicolo per razzismo, dobbiamo chiudere e ci sentiamo domani alle 18.30. Ciao. Secondo me la sua trasmissione... dura un po' troppo, 2 ore e un quarto. Mi sembra strano. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza. Lo so, lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la Zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Ve lo dico a voi due d'amico, fatevi i cazzi vostri. Radio 24, la passione si sente. Stazioni di servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. Vi ha presentato La Zanzara.